the specific topic for today's evening discourse is what wisdom is not. Allora, l'argomento specifico del discorso di questa sera è che cosa non è la saggezza. Now, you will remember from the preceding discourse that yesterday that evening, the Jataka, the Pala Jataka, in which we have the Bodhisattva and that tree deity. And the Bodhisattva warning the tree deity about that banyan seed that could potentially destroy Judas tree, the deity was dwelling in. Allora, vi ricorderete, ieri abbiamo parlato del Pannasa Jataka, in cui c'è il Bodhisattva e una divinità che vive nell'albero di Giuda, il Bodhisattva che cerca di mettere in guardia questa divinità riguardo al fatto che l'albero di Bagnano che stava crescendo avrebbe potuto distruggere poi il suo albero. And those two qualities, main qualities, that are spoken of in the Palasa Jataka are compassion and wisdom. E delle due qualità che questo Pannasa Jataka ci narra, che sono appunto la compassione e la saggezza. And in the Visuddhimagga we have explanations of the Buddha's qualities, and those two qualities are being mentioned there in various ways, and one is as follows. Nel Visuddhimagga vengono elencate le qualità del Buddha, queste due qualità, la compassione e la saggezza, sono descritte in vari modi, come segue. He knows through omniscience what is good and harmful for all beings, and through compassion he warns them of harm and exhorts them to do good. Egli, tramite la sua onniscienza, sa che cosa è dannoso e pericoloso perché è benefico, sa che cosa è dannoso e cosa è benefico per gli esseri, e tramite la sua compassione lui li istruisce riguardo che cosa è dannoso e cosa è benefico. Now, as Satna mentioned already, the practice of Satna, the four establishments of mindfulness, the four satipatthanas, will contribute to the arising of intuitive wisdom. Come ho menzionato già in precedenza, la pratica dei quattro satipattana, dei quattro fondamenti della consapevolezza, contribuisce allo sviluppo della saggezza intuitiva. And as the instructions of the Satipatthana Sutta state, one dwells contemplating the body in the body, feelings in feelings, the mind in the mind, and phenomena in phenomena, ardent, clearly comprehending, mindful, having removed covetousness and discontent in regard to the world. Queste istruzioni sono di contemplare il corpo nel corpo, le sensazioni nelle sensazioni, la mente nella mente, i fenomeni nei fenomeni, in modo ardente, con chiara comprensione, consapevole, consapevolmente, avendo abbandonato il desiderio e l'avversione e il dispiacere nei riguardi del mondo. And so what we find here is mindfulness certainly being mentioned not all by itself, but rather in conjunction with ardor, Atapa in Pali and certainly clear comprehension Sampajanya. E come vediamo la consapevolezza qui viene menzionata collegata con altri due qualità che sono l'essere ardenti, Atapa in Pali, e la chiara comprensione Sampajanya. Now, for those certain who are not yet certain familiar with these certain terms, the Pali term Atapa may mean a glow, a heat, or a heat, or ardor, and in our context it's the ardor. Per chi non è familiare con i termini in Pali, Atapa significa calore o appunto ardore, e nel nostro caso il significato che ci serve è quello di ardore. And the Pali, the word Atapi translates as possessing energy. Il termine Atapi si traduce anche come possedere energia. And to that, in turn, the Visuddhimagga defines as certain follows. For it is energy that is called ardor, atapa, in the sense of burning up and consuming the mental defilements. Nel Visuddhimagga viene data questa definizione e dicono viene detta atapa perché è un calore, che un'energia che brucia gli inquinanti mentali. And the one who has that is thus considered to be ardent. E una persona che ha questo è considerata essere ardente. And so ardor is certainly in the sense of overcoming the unwholesome mental states and certainly then preventing unwholesome states from arising, supporting the arising of wholesome mental states, and to endure difficult bodily sensations. Allora, questo ardore consiste nel superare gli inquinanti che sono sorti, cercare di evitare il sorgere degli inquinanti che non sono ancora sorti, dopodiché sostenere gli stati mentali benefici e riuscire a sopportare le sensazioni difficili che ci sono nella pratica. And just like mindfulness, this ardor also need to be continuous in nature, so it needs to be exerted moment after moment after moment. E nella pratica questo ardore deve essere sostenuto con continuità, quindi un momento dopo momento, istante dopo istante. As for the second quality, namely clear comprehension or clearly comprehending, in essence this is acting in a clearly conscious way. E riguardo a questa seconda qualità della chiara comprensione, si riferisce a agire in un modo comprendendo chiaramente che cosa facciamo. That's correct. And so before we do something, before we say something, before we think something, we want to briefly check whether what we are planning to say, to do, to say or to think, whether this is really appropriate or not. Quindi prima di fare qualche cosa, dire qualche cosa o pensare qualche cosa, prima di questo possiamo avere una breve riflessione in cui consideriamo se questa cosa è veramente appropriata, prima di farla parlare o pensare. And for us as meditators, we have a schedule according to which we practice, and then there are the five precepts, the eight precepts to be followed, restraint of the senses, doing things slowly, etc., etc. And then before one does something, to carefully reflect whether it is, whether it fits into the general format or not. Quindi noi come meditanti qua dobbiamo seguire il programma, poi abbiamo il contenimento dei sensi, dobbiamo seguire i cinque oppure gli otto precetti, dobbiamo muoverci lentamente. Quindi prima di fare una qualunque cosa possiamo riflettere brevemente se questa cosa che vogliamo fare rientra nel formato del nostro ritiro oppure no. And now, if we find if something is not neither beneficial nor suitable, then we don't do it. E se capiamo che questa cosa non è appropriata, non è di nessun beneficio, quindi non è idoneo a quello che stiamo facendo, allora è meglio non farlo. And the texts themselves give examples for what is meant by clear comprehension. Clear comprehension, for instance, with regard to thinking and the topic of our thoughts. I testi ci danno degli esempi sulla chiara comprensione, per esempio la chiara comprensione nei riguardi del pensare, cioè nel riguardo dei contenuto idoneo o meno del nostro pensiero. And so if the mind is about to go into some low vulgar thought, then we simply just don't allow the mind to go there. Quindi se la nostra mente vediamo che sta andando in dei pensieri che sono molto bassi e volgari, semplicemente noi non permettiamo alla mente di indulgere lì. Or clear comprehension with regard to the topic of a conversation. And certainness of the topic is certain of a worldly nature, related to politics or just general gossip, etc. Well, we don't want to get involved in such a conversation. Poi c'è la chiara comprensione nei riguardi di una conversazione, se quando parliamo vediamo che l'argomento di questa conversazione è un argomento mondano che riguarda la politica oppure dei gossip, allora cerchiamo di evitare questi argomenti. If, however, the topic is of a Dhamma nature, related to the Dhamma, related to contentment and virtue and certain liberation, etc., then this would be an appropriate topic. Se invece il nostro argomento di conversazione è correlato con il Dhamma, oppure è un argomento che tratta dell'accontentarsi, della virtù o della liberazione, allora questi sono argomenti idonei. Now, the third quality mentioned in the Satipatthana Sutta is mindfulness itself. And sati in Pali. Poi la terza qualità che è menzionata nel Satipatthana Sutta è la consapevolezza stessa, che in Pali è sati. And this Pali term can be derived from the root sam and is related to the verb sarati. Questa parola viene dalla radice sam, che è collegata alla parola sarati, which means not to remember. However, in the context of the mindfulness practice, it relates more to presence of mind, attentiveness to the present, awareness, wakefulness and heedfulness. E che letteralmente si traduce con ricordare, però nel nostro ambito significa questa presenza mentale, questa appunto consapevolezza, questa heedfulness, abilità. Molto vigili, attentività della mente. Non so. The Venerable Sai Upadita Biwa himself, Thutna Burma, preferred Thutna, the translation, as observing power, because it gives this dynamic nature of Thutna, the activity. E Sayadaw Upandita dalla Birmania, lui preferiva definirlo come il potere di osservazione, perché dà un'idea migliore del questo dinamismo, dynamic of the quality of mindfulness, the dynamism. Perché dà un'idea della dinamicità, della qualità della consapevolezza. Now, despite the fact that only these certain three qualities are mentioned, three qualities of ardent certain energy of clear comprehension and mindfulness, despite of that, a number of other qualities, mental qualities, need to be present when we observe and know objects in the body and in the mind. Allora, sebbene siano menzionate soltanto queste qualità, quindi dell'ardente energia, della chiara comprensione, della consapevolezza, quando noi osserviamo i processi nel corpo e nella mente, sono necessarie delle altre qualità. And we have, for instance, the so-called Jagariya Sutta, the discourse on wakefulness, which mentions two qualities that one should ideally also possess, namely vigilance and concentration. In questo Jagariya Sutta, che parla appunto della consapevolezza, dell'essere vigili, vengono menzionate altre due qualità che sono la vigilanza e la concentrazione. The respective passage says, oh, the retreatants, a retreatant should be vigilant. One should live mindful, clearly comprehending. Quindi un meditante deve essere vigile, deve vivere in modo consapevole, con chiara comprensione. And on top of that, a retreatant should be concentrated, happy and calm. E inoltre un meditante dovrebbe essere concentrato, felice e calmo. And one should know when it is suitable to cultivate those things that are wholesome. E dovrebbe sapere quando coltivare quelle cose che sono benefiche. And that refers to the cultivation of mind, of insight, after establishing mindfulness. E questo si riferisce alla coltivazione dell'insight dopo aver stabilito la consapevolezza. Now, to be vigilant means, or expressed differently, is to be alert, to be wakeful. And since in the meditation practice, things can change very quickly, especially on a mental level. We need to be alert, we need to have wakefulness. Quindi questo essere vigili significa essere allerta, essere molto svegli, nel senso che durante la nostra pratica le cose cambiano molto rapidamente, anche e soprattutto a livello mentale, quindi ci serve questa qualità dell'essere allerta della mente. To give you an example, the minds may, or there might, you know, there may be some calmness in the mind, and within a micro moment this changes into restlessness. Per fare un esempio, potrebbe esserci calma nella mente e proprio in un micro istante questa cosa cambia e arriva l'irrequietezza. And if one is lacking in vigilance and alertness, well, then one doesn't even notice that restlessness and unwholesome mental state has arisen in the mind. E se non siamo vigili, se non c'è questa qualità dello stare allerta, allora non ci rendiamo nemmeno conto che c'è stato questo cambiamento e che la mente e che è arrivato questo stato non salutare. Now, the Pali term for being concentrated is sammahito. Sammahito. Sammahito è il termine in Pali che vuol per descrivere l'essere concentrati. Yes. And that means certainly that the mind is collected, settled, one-pointed. Vuol dire che la mente è raccolta, è stabilita, è diretta in un punto solo. And with regard to such a concentrated state of mind, the Samyutta Nikaya, in its fourth volume, section 80, contains a really important statement that says, "O retreatants, develop concentration. A retreatant who is concentrated understands things as they really are." E riguardo questo raccoglimento della mente, nel Samyutta Nikaya, capitolo 80, o forse... No, volume 4. Volume 4. passage 80. Capitolo 4, passaggio 80, viene detto, un meditante sviluppa la concentrazione e grazie allo sviluppo della concentrazione... Si vede le cose così come sono veramente. Yes, right, that's it. And in Pali, samahito bhikkhave bhikkhu yata bhutam bhajanati. Yata bhutam, as it truly is, as it really is, bhajanati, he or she sees or understands. Allora, questa frase in Pali, yata bhuta vuol dire le cose come sono, mentre bhajanati vuol dire che lui vede, comprende chiaramente. Yes. And that same term, samahito, appears also in the Ratana Sutta, so the discourse on jewels, in connection with the Buddha, the Sakyamuni. E samahito, come parola, compare anche nel Ratana Sutta, che è il sutta sui gioielli, in riguardo al Buddha. And there it says in English, the sage of the Sakyans of a concentrated mind realized that cessation which is passionless, immortal and excellent. Quindi il saggio dei Sakya, che ha una mente concentrata, ha realizzato questa pace, liberazione, cessation. Questa cessazione che è pacifica. Non mi ricordo. Which is passionless, immortal and excellent. Che è distaccata, immortale, eccellente. And so the Pali here is Sakyamuni Sammahito, the sage of the Sakyas of a concentrated mind. Quindi Sakyamuni Sammahito vuol dire saggio dei Sakya che ha una mente concentrata. Now, as mentioned already yesterday, unwholesome forms of speech may be unconducive to the arising of concentration. come ho menzionato ieri, delle forme non salutari di parola, del modo di parlare, non conducono allo sviluppo della concentrazione. And the relevant passage here can be found in the Majjhima Nikaya, so the middle length discourses, where it says one speaks harshly, one utters words that are rough, hard, hurtful to others. Nel Majjhima Nikaya troviamo questo passaggio in cui si dice, riguardo a questa parola, il parlare in modo aspro e in modo duro hurtful. Sì, ruvido, non si... duro e doloroso per gli altri. Yeah, okay. Offensive to others, bordering on anger, unconducive to concentration. Quindi è offensivo per gli altri, conduce alla rabbia e non conduce alla concentrazione. So during this Satna retreat we will all make a huge effort to speak in language that is not rough and harm and hurtful. Quindi durante questo ritiro prestiamo particolare attenzione a non usare parole che siano appunto dure, brusche o dolorose per gli altri, che feriscano gli altri. Now, and then we have yet another quality that Satna the Buddha has mentioned, and Satna that is very much relevant to our meditation practice. The Pali term for this is sant interio. Poi delle qualità che sono utili per la nostra pratica di meditazione sono descritte da Sant'Indrio, da questa parola Sant'Indrio. Mm. And Satna with that is meant to be of peaceful faculties. E con questo si intende avere delle facoltà pacifiche. Or to be of calmed senses. O questa calma dei sensi. So one whose faculties are peaceful, one whose sense faculties are not agitated because of lust and so forth in the encounter with desirable objects and sadness, so on. E quindi una persona le cui facoltà sono pacifiche e le facoltà sensoriali non sono agitate a causa, per esempio, della brama che sorge verso degli oggetti piacevoli, gradevoli. And so due to that, then one's faculties are peaceful. By faculties here are meant Satna the six Satna sense Satna six sense six six oh my goodness the six sense faculties, namely the seeing, the hearing, the smelling, the tasting, the touching and Satna the knowing. Quindi con facoltà qui si intendono le sei facoltà sensoriali, quindi il vedere, l'udire, l'odorare, il gustare, il percepire con il corpo e la facoltà della mente. And in particular with regard to the body, we want to ensure that the body is as composed as possible. E in particolare riguardo al corpo, noi cerchiamo di controllare che il corpo sia composto. Now, there are different parts to the human body. We have Fatna the head, we have Fatna the hands, we have the trunk, we have the legs, we have the feet. And all of these parts ideally should be of a calm, peaceful nature. Allora, tutte le parti che compongono il nostro corpo umano, la testa, il tronco, le braccia, le gambe e i piedi, idealmente dovrebbero avere questa natura pacifica. And so rather than moving these various body parts around in an uncontrolled manner, in an erratic manner, brisk manner. We want to ensure that our, especially the body, is as peaceful, as calmed, as calm as possible. Quindi questo significa cercare di far sì che il nostro corpo non si muova bruscamente, in modo erratico o casuale, ma che invece sia composto e che abbia appunto questa qualità di pace, che sia pacifico. This quality of being of peaceful faculties is a quality that the Buddha himself very much had cultivated. Questa qualità di avere le facoltà sensoriali pacifiche era una qualità che il Buddha stesso aveva coltivato molto. And in the Udana we have a short passage that Satna describes by here of Satna the Bhag, an ascetic, then trying to catch up with the Buddha who is on alms round in Savatthi, and Satna then seeing the Buddha. Negli Udana c'è questo racconto di Bahia, che era un errante vestito di corteccia, che aveva visto il Buddha girare durante la sua questa del cibo e gli si era avvicinato. And so Bahia, it states here, saw the Blessed One walking for alms food in Savatthi, pleasing, lovely to see, with calmed senses and tranquil mind, attained to perfect poise and calm, controlled a perfect one, watchful with restrained senses. So this is a bit too much. Okay, Bahia aveva visto il Buddha girare per Savatthi, che, e aveva visto che le sue facoltà erano molto calme, molto pacifiche, era molto controllato, tutti i movimenti che faceva erano così perfect poise and calm. Aveva una posa che era perfetta, perfettamente calma. Controlled and certainly watchful with restrained senses. E vedeva che era molto controllato, che aveva questo era contenuto. Now, when you go to some of these traditional Theravada Buddhist countries, and you come across Satna, some meditator who has Satna practiced for long periods of Satna time, then you might Satna notice just that very quality. E se andate in questi paesi buddhisti in Asia e incontrate dei meditanti che hanno praticato per veramente molto tempo, potete proprio vedere che hanno queste qualità nel modo in cui muovono il corpo. Now, there's one more quality that ideally we should certainly possess while being mindful of objects as they're occurring in the body and in the mind, and this is the quality of equanimity. Un'altra qualità che è buono avere quando osserviamo e seguiamo questi processi nel corpo e nella mente è la qualità dell'equanimità. And so in the course of one's retreat, one is bound to come across at times desirable experiences, at other times undesirable experiences. Durante il nostro ritiro incontreremo delle esperienze che sono desiderabili e altre invece che sono indesiderabili. And what the mind typically does is it longs for the desirable experiences, it wishes for more of those, and it tries to get rid of the undesirable experiences. Quello che di solito succede è che la mente desidera le esperienze appunto desiderabili, piacevoli e ne vuole di più, e invece non vuole, cerca di rifiutare quelle che sono sgradevoli. And so when this happened, or when it is like this, then it means that the mind is highly reactive. Quando questo succede vuol dire che la mente ha una alta reattività. And that reactivity is actually quite tiring. E la reattività è, in realtà è qualcosa che è molto stancante. And so from the very beginning of our retreat, we want to at least try to remain as balanced as possible towards certain desirable and undesirable objects as they come along. Quindi anche all'inizio del nostro ritiro noi possiamo provare il meglio che possiamo a rimanere in equilibrio di fronte a queste esperienze, a questi oggetti, sia che siano desiderabili sia che siano indesiderabili. And to give you the relevant passage for this from the third volume of the Anguttara Nikaya, section 279. Here, having seen a form with the eye, a retreatant is neither joyful nor saddened, but dwells equanimous, mindful, and clearly comprehending. Allora, nell'Anguttara Nikaya si trova questa descrizione, qui un meditante, avendo visto un oggetto con gli occhi, rimane equanime, consapevole e con chiara comprensione. And neither joyful nor saddened. E non ne gioisce e non se ne rattrista. Yeah. Now, as announced, in order to understand what wisdom is, it is helpful to look at what wisdom is not. Allora, come ho annunciato all'inizio, per capire che cosa è la saggezza, è utile capire che cosa la saggezza non è. Now, when we come here to Pieni Ciliegi for a meditation retreat, and we then expect to gain knowledge by the grace of some supreme being, then that is not the knowledge intended by the Buddha. Allora, se veniamo qui a Pian dei Ciliegi a fare un ritiro e ci aspettiamo di ottenere la conoscenza grazie alla grazia di un essere supremo, questo non è quello che, che il Buddha intende per acquisire conoscenza. And when we speak of knowledge, then it is not the kind of knowledge that is based on imagination rather than clearly seeing what is happening. Quando parliamo di conoscenza, non è una conoscenza basata sull'immaginazione, ma invece sul vedere chiaramente quello che sta succedendo. Now, knowledge may arise in different ways. For instance, there might be there is knowledge based on thinking. There is that knowledge based on hearing, and certain knowledge based on logical thinking. La conoscenza può sorgere in vari modi, c'è una conoscenza che è basata sul pensiero, una conoscenza che è basata sul sentire da altri, e una conoscenza che è basata su un ragionamento logico. And this knowledge based on thinking in Pali is given as Chintamaya Panya, and so that arises by carefully considering a matter, thinking it over. Questa conoscenza che si basa sul pensiero sorge quando noi con molta cura e attenzione pensiamo a un soggetto più e più volte, approfonditamente. The Buddha then spoke of knowledge based on hearing, Suttameya Panya in Pali, and refers to even includes reading books, hearing discourses, attending lectures and the like. Poi la conoscenza invece basata sulle cose diciamo sentite includono anche in realtà i leggere i libri, ascoltare dei discorsi, delle lezioni. So no doubt knowledge that arises through thinking and knowledge that arises through hearing leads to some form of understanding. But whether this knowledge is truly seeing the Dhamma is a different question. Allora, il Buddha diceva che grazie alla conoscenza basata sul ragionamento, sul pensiero, alla conoscenza basata sul sentire, è possibile acquisire una certa conoscenza o comprensione, però se si sta parlando di una vera comprensione del Dhamma, no, questa è un'altra faccenda. And so, what the Buddha had in mind is a knowledge based on mental development. A mental development is the mindfulness meditation practice. Quello che aveva in mente il Buddha invece era una conoscenza basata sullo sviluppo mentale e per questo si intende appunto lo sviluppo della meditazione di consapevolezza. And this goes much further than the knowledge based on thinking and hearing. Che è una conoscenza che va ben oltre a una conoscenza basata sul pensare o sul sentire o leggere. And it is through a knowledge based on mental development that we come to understand the three universal characteristics of anicca, dukkha and especially anatta. Ed è solo grazie a una vera conoscenza che è basata sullo sviluppo mentale che è possibile comprendere realmente le tre caratteristiche dell'esistenza che sono anicca, dukkha e anatta. And when hearing the term nibbana, we can read about it as much as we like, we can listen to others' accounts of it as much as we like, but we will still not know what this is all about. E quando udiamo la parola Nibbana possiamo anche leggerne molto a riguardo, possiamo ascoltare cose a riguardo, possiamo addirittura ascoltare magari dei racconti di altri, ma per quanto facciamo queste cose non sapremo mai veramente di che cosa si tratta in questo modo. And so a true understanding of Nibbana comes through direct practice. Perché la vera comprensione di che cos'è il Nibbana viene solo da una pratica diretta. Now, in the old days, especially in India, knowledge was passed on by way of oral tradition. Yet, this too is just passing on material from one generation to the next, and it doesn't necessarily mean that it is an intuitive form of knowledge. A quei tempi in India la conoscenza era basata su questa tradizione orale che passava da una generazione all'altra, ma questo non voleva dire che ci fosse una conoscenza intuitiva coinvolta. And as stated already yesterday, what is not meant is knowledge without practice, knowledge without being well established in virtuous conduct. Quindi quello che non è la conoscenza intuitiva è una conoscenza che non è basata sulla pratica e che non è basata su una base di questa condotta morale, etica. So it's a knowledge that arises under very specific conditions. Quindi è una conoscenza che sorge da delle condizioni molto specifiche. And now one might think that attending this or that certain course, university course in Buddhist philosophy, that this will bring about some understanding. Yes, to some extent, but it will be theoretical, more theoretical in nature than practical. E se pensiamo che facendo un corso magari universitario sul buddismo, su tutti i testi buddisti, possiamo acquisire della conoscenza, sì, possiamo acquisire della conoscenza, ma sarà della conoscenza teorica e non sarà conoscenza pratica. No. The Visuddhimagga gives us a definition of what is meant by knowledge or understanding. Il Visuddhimagga ci dà una definizione di quello che si intende per comprensione o conoscenza. It states understanding panya is of many sorts and has many aspects. Dice la comprensione panya ha molte fonti e ha molti aspetti. In short, it is understanding consisting in insight knowledge associated with wholesome consciousness. In breve consiste in nella conoscenza di insight in associazione con una coscienza salutare. And so wisdom or knowing. Panya is wisdom or knowing things as they really are. Quindi panya, questa saggezza, questa conoscere, questa comprensione, vuol dire conoscere le cose così come sono veramente. The Buddha has used quite a number of different terms, all expressing, all related to wisdom. Buddha ha utilizzato molti termini diversi per parlare della saggezza. So we have jnana, for instance, as a certain insight knowledge. Then there is moha, which is delusion. Amoha is non-delusion. Non-delusion is wisdom. Per esempio c'è jnana che si riferisce proprio alle conoscenze di insight. E poi c'è amoha, perché moha vuol dire illusione, amoha vuol dire il suo contrario, quindi la comprensione, la saggezza. Mm-hmm. Or there's the Pali term vijja, which means certain knowledge. Oppure vijja, che significa conoscenza. And dasana, meaning seeing. Dasana, che vuol dire vedere, avere la visione. Now, when we take a closer look at various definitions of wisdom as given, for instance, in the Atasalini, which is the commentary to the Dhamma Sangani, we find the following. Allora, nell'Atasalini, che è commentario al Dhamma Sangani, troviamo questa definizione di saggezza. Panya has the characteristic of illuminating Upasana. Allora, panya ha questa caratteristica di illuminare. Or as understanding Pajanana. O di comprendere. Quindi c'è. And the illustration given here is as when a lamp burns at night in a four-walled house, the darkness ceases, light manifests itself. Allora, la metafora che viene data è di una lampada che viene accesa in una casa, in una stanza di quattro mura, e quindi nel momento in cui la luce viene fuori dalla lampada, l'oscurità cessa. And so understanding has illuminating as its characteristic. Quindi viene detto che la sua caratteristica è quella di illuminare. Now, a different definition of Nipanya, also given in that same text, is understanding has unfaltering penetration as its characteristic. Un'altra definizione data nello stesso testo è che ha la caratteristica di penetrare, continuously penetrating. Okay. Ha questa caratteristica di penetrare in modo diretto e continuo, senza fermarsi. Yeah, that's correct. Okay, senza commettere errori va dentro. And then the illustration given for this is like the penetration of an arrow shot by a skilled archer. E la metafora per questo è il penetrare di una freccia che è stata tirata da un arciere molto abile. And so, like an arrow that deeply penetrates into the target, so too wisdom penetrates penetrates and sees the intrinsic nature of formations. Quindi come una freccia che penetra in profondità dentro un animale, nello stesso modo la saggezza penetra in profondità dentro l'intrinseca natura dei fenomeni, delle cose. Now, its function is said to be illumination and non-perplexity, non-bewilderment is said to be its manifestation. Allora, la sua caratteristica è quella di penetrare, mentre la sua funzione è quella del non ondeggiare, no, dell'illuminazione. La manifestazione è non ondeggiare. Ok. Come? Ah, ok, scusate, no, è di non confusione, la non confusione, è la manifestazione. Yeah. And it is the second definition that is commonly used for wisdom. E poi c'è una definizione che viene comunemente usata per la saggezza. And the proximate cause, the nearest cause for the arising of wisdom is wise attention, and as the first, and then the consolidation of the mind, in other words, concentration. Allora, poi la causa prossima per il sorgere della saggezza è l'attenzione saggia e questo consolidamento della mente, cioè la concentrazione. Now, just briefly in terms of the etymology of the term panya, panya derives from the verbal root jña and satna the prefix pa, which then we combined becomes panya. Allora, se guardiamo l'etimologia della parola pagna, la radice è gna, poi c'è il prefisso pa, e quindi quando li uniamo diventa pagna. And the verbal form of it is pagianati. La sua forma verbale è pagianati. And in the original sense, Panya refers to understanding the four noble truths. Nel suo senso originale, Panya significa comprendere le quattro nobili verità. So the noble truth of suffering, of the origin of suffering, the cessation of suffering, and the path leading to the cessation of suffering. Quindi la nobile verità della sofferenza, la nobile verità della causa della sofferenza, della cessazione della sofferenza, del sentiero che conduce alla cessazione della sofferenza. Elsewhere, wisdom is also said to consist in coming to know the three universal characteristics. In altri luoghi viene detto che la saggezza significa il riuscire a conoscere le tre caratteristiche universali. And as mentioned already yesterday, wisdom is arising, being established on virtuous conduct and further based on concentration. E come abbiamo detto ieri, la saggezza sorge basata sul rispetto della condotta morale e sullo sviluppo della concentrazione. And this has been nicely summarized in a verse given in the Samyutta Nikaya as follows. Questo viene riassunto in modo bello in un verso del Samyutta Nikaya. A person established on virtue, wise, una persona che è stabilita nella virtù ed è saggia, developing the mind, and this is in reference to concentration, sviluppa la mente, questo si riferisce alla concentrazione, and wisdom, e la saggezza, a retreatant, ardent and discreet. Un meditante ardente, e contenuto. Can disentangle this tangle. Può sgrovigliare questa matassa, questo groviglio. No. In connection with wisdom, we find words such as discriminating, such as carefully examining an object, such as investigating an object, all related to wisdom. Allora, collegati con la saggezza troviamo altri termini come la discriminare, esaminare attentamente un oggetto e investigare l'oggetto, indagare nell'oggetto. Yeah. And so when we observe the rising falling movement of the abdomen or any other predominant object, then we want to do this in a thorough manner and carefully examine the object, carefully investigate what is happening there and discriminating one from another. Quindi quando noi osserviamo salire e scendere dell'addome o qualunque altro oggetto, cerchiamo di farlo con questa comprensione, questa discriminazione che deve essere la più completa e totale possibile, quindi cercando veramente di vedere, di indagare che cosa sta succedendo lì. Now, and to gradually come to a conclusion, there is a passage in the Samyutta Nikaya that sadness speaks of an inferior person. Poi nel Samyutta Nikaya invece c'è un passaggio che parla della persona inferiore. As well as a superior person. A superiore e anche della persona superiore. Now, what, oh retreatants, is the inferior person? Here, someone is of wrong view, wrong intention, wrong speech, wrong action, wrong livelihood, wrong effort, wrong mindfulness, and wrong concentration. This is called an inferior person. Allora, meditante, qual è una persona inferiore? Una persona inferiore è una persona che ha la visione errata, che ha l'intenzione errata, che ha la parola errata, l'azione errata, gli errati mezzi di sostentamento, l'errata energia, sforzo, l'errata sforzo, l'errata consapevolezza, l'errata concentrazione. Yes. And what, O retreatants, is the superior person? And the answer to this is, here someone is of right view, right intention, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, and right concentration. Invece una persona superiore è una persona che ha, appunto, la retta visione, la retta intenzione, la retta parola, la retta azione, i retti mezzi di sostentamento, il retto sforzo, la retta consapevolezza e la retta concentrazione. So, allow me to conclude today's Satnam discourse on what wisdom is not and what wisdom is by wishing what has been explained may help you to better understand what wisdom is all about, and certainly may you take that understanding into your practice, implement it, and certainly then may intuitive, discriminating knowledge arise that ultimately sees Nibbana as being truly peaceful. Allora, per concludere, mi auguro che questo discorso su cosa la saggezza è e cosa non è, voi possiate portarlo nella vostra pratica, che vi possa aiutare a sviluppare quindi una saggezza che riesca a discriminare, una saggezza intuitiva che alla fine vi possa portare all'esperienza del Nibbana. Okay. Sadhu, sadhu, sadhu, sadhu. Sadhu. Sadhu. Sadhu. Well, thank you for it.